Parto qui, cari amici, con il primo capitolo. E sono le ombre e gli splendori, l'umiltà e la grandezza di San Giuseppe. A questo proposito devo dire e ringrazio Padre Livio per avermi concesso anche un'introduzione all'interno del libro. Questo capitolo ci fa vedere proprio la grandezza di questo santo, ma anche la poca attenzione che molti di noi hanno nei suoi confronti. E scrivo così. Normalmente anche tra i buoni cristiani non si ha un'idea abbastanza precisa di San Giuseppe. Forse questo è dovuto al fatto che la sua persona è così vicina a Gesù e a Maria che tanta luce diffondono intorno a loro da porla in penombra. Ed è per questo che probabilmente molti la degnano appena di uno sguardo distratto. Accade quindi un fenomeno strano, quasi incomprensibile riguardo a San Giuseppe. Noi restiamo infatti stupiti, ammirati dall'ardore apostolico di San Paolo, dal suo coraggio, dalla carità inesauribile di San Vincenzo de Paoli, dal serafico amore di San Francesco d'Assisi, dalla semplicità incantevole di Santa Teresina di Lisieux, e poi restiamo indifferenti davanti alla figura di San Giuseppe. Eppure questo grande santo riunisce in sé, in grado sommo, tutte le virtù, le bellezze e i pregi che vediamo presenti nei santi che abbiamo appena citato. E si parla di lui già agli inizi dei secoli, nei primi secoli. Infatti, San Gregorio Nazianzeno, siamo nel IV secolo, dice: «Il Dio ha concentrato in San Giuseppe gli splendori di tutti i santi». E io dico, potremmo quindi fare esperienza di una scoperta meravigliosa, e la nostra anima potrebbe trarre grande giovamento nel contemplare le bellezze interiori ed esteriori, insieme alle virtù e i pregi di questo santo, che presi ad esempio farebbero più spedito il nostro cammino spirituale e ci renderebbero di conseguenza più agevole la vita di ogni giorno. Non c'è cosa più bella per chi è devoto di un santo cercare di somigliargli. E noi questa sera desideriamo proprio cercare di essere più vicini a San Giuseppe, conoscendolo più da vicino e cercando di somigliargli per quel poco che possiamo. A questo proposito possiamo quindi assicurare che Gesù e Maria Santissima non fanno altro che illuminare maggiormente tutte le qualità di San Giuseppe, sia sotto l'aspetto di sposo che sotto quello di padre putativo. Tutto questo per presentarci la perfetta comunione di Giuseppe all'interno della Sacra Famiglia. Notiamo infatti anche dagli scritti come la candida verginità di Maria non possa che esaltare l'angelica castità del suo sposo e come l'infinita umiltà di Gesù si riflette come in uno specchio nel suo amato custode. E proprio riguardo all'angelica castità di Giuseppe e alla purezza di Maria, dicevo prima, mi riferivo ai Vangeli apocrifi, hanno condizionato diciamo molto l'arte ma anche il pensiero cristiano in quanto diciamo, lo si è fatto anziano quasi per preservare la purezza di Maria, ma no, non ce n'era assolutamente nessun bisogno, perché lo vediamo anche da quello che ci scrivono i santi e i papi. Tornando a noi, leggo: questo fiducioso abbandono da parte di Maria e di Gesù e il loro amore tenerissimo nei confronti di Giuseppe vengono totalmente ricambiati dall'assoluta e profonda venerazione, dalla tenerezza di padre e dalla delicatezza di sposo del nostro santo patriarca. In questo senso possiamo affermare che veramente la figura di questo santo trova la sua giusta e meravigliosa collocazione accanto a Gesù e alla Vergine Maria. Apprezziamo anche il comportamento di Giuseppe, la finezza con la quale sa ricambiare i sentimenti del suo dolce figlio e della sua sposa, con quale delicatezza gli anticipa i loro desideri e provveda alle loro necessità. E come con altrettanta semplicità e grazia, egli conviva con l'uomo Dio e la Madre Santa. E ancora il portamento nobile e dignitoso, sappiamo che San Giuseppe era di stirpe regale, il portamento nobile e dignitoso, su cui splende un volto regale, in contrasto con la povertà degli abiti e con l'umiltà del mestiere, dona alla sua persona una particolare attrattiva che ci porta ad un senso di venerazione sincera, vera e profonda. Egli è infatti, cari amici, il riflesso, il rappresentante di Dio Padre sulla terra. Voi pensate che compito ha avuto questo santo? E così afferma anche un noto teologo del 1600, Cornelio Lapide. Egli è stato, dice, più che un uomo, un angelo. E un altro grande teologo, un eminente studioso di San Giuseppe, un padre domenicano Isidoro degli Isolani, siamo nel 1500, dice: Giuseppe riunì in se stesso le prerogative di tutti i nove cori degli angeli. E io scrivo: se a noi fosse data la grazia di poter penetrare l'animo di questo santo patriarca, godremmo nel vedere i sentimenti e gli affetti di colui che doveva essere, come dice San Bernardo, il dolce conforto della madre sua, cioè la mamma di Gesù, della Madonna, il provvido custode e sostegno della sua umanità, il fedelissimo e unico cooperatore in terra del grande e misterioso suo disegno, l'incarnazione redentrice. Vorrei dirvi che San Bernardo è stato, siamo nel XII secolo, San Bernardo è stato, allora, chi ha parlato di San Giuseppe lo ha fatto anche, l'abbiamo già visto da alcuni maestri di spirito, eccetera, ma ne ha parlato anche Sant'Ambrogio, ne ha parlato Sant'Agostino, ma chi è stato uno tra i primi santi ad invitare i suoi fedeli, ma anche i suoi discepoli, i suoi figli spirituali, ad accendere una sincera devozione nei confronti di San Giuseppe è stato proprio San Bernardo, pensate, il primo devoto, possiamo dire in questo caso. E allora per questo non ci devono stupire la particolare attenzione e predilezione che tanti di loro, tanti santi, come vedremo, hanno nutrito verso San Giuseppe e anche l'accorato invito che hanno rivolto ai fedeli ad essergli particolarmente devoti. Padre in terra di Gesù, casto sposo di Maria, uomo pieno di virtù. Ecco, passiamo adesso proprio al secondo capitolo che parla di San Giuseppe e i Santi. Così cominciamo a penetrare nel cuore meraviglioso di questo santo. E uno dei maggiori maestri di spirito di allora, particolarmente devoti a San Giuseppe, è Padre Luigi Lallemand. Siamo nel XVI secolo e della Compagnia di Gesù, e allora era proprio visto, era molto, molto stimato perché era un santo sacerdote. Ma era anche uno dei maestri di spirito più grandi e soprattutto equilibrati, proprio insigne devoto del nostro santo, che esortava i suoi discepoli a mettersi sotto la guida di San Giuseppe e diceva così: avendogli Dio affidato la direzione e il governo del suo figlio e della Santissima Vergine, San Giuseppe ebbe in ciò un impiego infinitamente più elevato che se avesse avuto il governo di tutti gli angeli e la direzione interna di tutti i santi. Dobbiamo dunque rivolgerci a Lui nei nostri impegni, nelle nostre funzioni e domandargli insistentemente che ci diriga non solo nell'interiore, cioè quindi nel cammino spirituale, ma anche all'esterno, quindi nel nostro cammino di ogni giorno anche. Essendo certo, continua Padre Lallemand, che questo grande santo ha un potere speciale per sovvenire nelle vie interiori e che si riceve da Lui molta assistenza per ben condursi anche in ciò che appare al di fuori. Ed è appunto per mezzo di San Giuseppe che, proprio su questo invito di Padre Lallemand, dovremmo cercare di ottenere la direzione dello Spirito Santo, che resta condizione indispensabile per ben proseguire il nostro cammino spirituale. Come afferma ancora lui, questo padre, dice: ogni anima che vuole progredire nelle vie interiori deve rivolgersi a San Giuseppe con la speranza di ottenere per la sua intercessione la direzione dello Spirito Santo. Poiché dice, avendo questo grande patriarca avuto l'incarico di governare sotto la direzione dello Spirito Santo il Figlio di Dio e la Santa Sua Madre, per merito di questo impiego si è acquistato come una specie di diritto a condurre interiormente le anime fedeli. Si vede infatti sensibilmente che quello che lo prendono per direttore fanno sotto la sua condotta progressi meravigliosi. E ora passo, sempre con i santi, alla, possiamo definirla la Beniamina di San Giuseppe. È una grandissima santa che noi conosciamo, stiamo parlando di Santa Teresa d'Avila. Siamo nel XVI secolo e proprio lei, Santa Teresa d'Avila, ci aiuterà, cari amici, meglio a capire, attraverso il suo esempio e anche il suo personale incitamento, quello che chiede a noi di fare nei confronti di San Giuseppe. Scrive nelle opere al capitolo 6, dice Santa Teresa: vorrei persuadere tutti a essere devoti di questo glorioso santo per la grande esperienza che ho dei beni che egli ci ottiene da Dio. Proprio lei, pensate, in un momento di particolare necessità, scrive: «Io presi per il mio avvocato e patrono il glorioso San Giuseppe e mi raccomandai a lui con fervore. Questo mio padre protettore mi aiutò nella necessità in cui mi trovavo e molte altre più gravi in cui era in gioco il mio onore e la salute dell'anima mia». Quindi vi ricordo che Santa Teresa, perché c'era questa grande prova? Perché Santa Teresa nella sua vita fu accusata addirittura di essere pazza, e questo purtroppo con grande amarezza e tristezza e sofferenza per lei da parte anche di diversi ecclesiastici. Quindi visse veramente dei periodi terribili in questo senso. E lei si affidò totalmente alla Madonna, in particolare a San Giuseppe. E dice, scrive: «Ho visto chiaramente che il suo aiuto, di San Giuseppe, mi fu sempre più grande di quello che avrei potuto sperare. Non mi ricordo finora di averlo mai pregato di una grazia senza averla subito ottenuta. Ed è cosa che fa meraviglia ricordare i grandi favori che il Signore mi ha fatto e i pericoli di anima e di corpo da cui mi ha liberata per l'intercessione di questo santo benedetto. Ad altri santi, continua Teresa, sembra che Dio abbia concesso di soccorrerci in questa o in quell'altra necessità, mentre ho sperimentato che il glorioso San Giuseppe estende il suo patrocinio su tutte. Con ciò il Signore vuole darci a capire che a quel modo che era lui soggetto in terra, dove egli come padre potativo gli poteva comandare, altrettanto gli sta ora in cielo nel fare tutto ciò che gli chiede. Ciò hanno riconosciuto per esperienza varie altre persone che dietro mio consiglio gli si sono raccomandate. Molte altre si sono fatte da poco sue devote per aver sperimentato questa verità. E dice: per la grande esperienza che ho dei favori di San Giuseppe, vorrei che tutti si persuadessero ad essergli devoti. Non ho conosciuta persona che veramente gli sia devota e gli renda qualche particolare servizio senza far progressi in virtù. Egli aiuta moltissimo chi si raccomanda a lui». E continuo con la testimonianza di questa grandissima santa, perché, cari amici, ci fa comprendere, ci fa penetrare davvero nel cuore di questo santo patriarca, di questo giglio di purezza che è San Giuseppe. Scrive Santa Teresa: «È già da vari anni che nel giorno della sua festa io gli chiedo qualche grazia e sempre mi sono vista esaudita». La sua festa sappiamo che è il 19 marzo, ma ogni giorno gli può essere chiesta una grazia. Lei dice: «Se la mia domanda non è tanto retta, egli la raddrizza per il mio maggior bene. Se la mia parola potesse essere autorevole, come se lo è, ben volentieri mi dilungherei nel narrare dettagliatamente le grazie che questo santo glorioso ha fatto a me e ad altri. Chiedo solo, per amore di Dio, che chi non mi crede ne faccia la prova e vedrà per esperienza come sia vantaggioso raccomandarsi a questo glorioso patriarca ed essergli devoti». E lei dice e specifica: «Gli devono essere affezionato specialmente le persone di orazione, di preghiera, perché non so come si possa pensare alla Regina degli Angeli e al molto da lei sofferto col bambino Gesù senza ringraziare San Giuseppe che fu loro di tanto aiuto. È stata la colonna della Santa Famiglia». E dice ancora: «Chi non avesse maestro da cui imparare a fare orazione, prenda per guida questo santo glorioso e non sbaglierà». Vedete come i santi proprio continuano a invitarci a prenderlo come guida spirituale, quindi cercare di somigliargli, che sia un esempio per noi, e chiedere a lui proprio la grazia di poter camminare sulla strada della preghiera, sull'apertura del cuore, seguendo il suo esempio e chiedendo la sua potentissima intercessione. Dopo Maria c'è solo San Giuseppe. E ancora lei, questa nostra grande beniamina, Santa Teresa, scrive al capitolo 33 delle opere: «Nel giorno dell'assunta, il 15 agosto del 1562, fui presa da un rapimento così grande che quasi mi fece uscire da me. Mi pare dovette sedermi. Stando così mi vidi coprire di una veste molto bianca e splendente. Da principio non vedevo chi me ne copriva. ma poi scorse alla mia destra la Madonna e alla sinistra il mio padre San Giuseppe, i quali, mentre così mi vestivano, mi facevano comprendere che ero purificata dalle mie colpe. Vestita che fui e ripiena di grandissima gioia di letto, mi parve che Nostra Signora mi prendesse per le mani, dicendomi che la mia devozione al glorioso San Giuseppe le faceva molto piacere. Delle bellezze di Nostra Signora non potei discernere nulla, la vidi solo nel suo complesso ed era di una bellezza incantevole, vestita di bianco con grandissimo splendore, non abbagliante ma soave. Non così distintamente vidi il glorioso San Giuseppe, ma solo che era presente, nel modo delle visioni descritte più sopra, nelle quali non si vede figura. E proprio da un'analisi attenta di questa visione o apparizione emergono tre dati fondamentali inerenti a San Giuseppe. Il nostro santo, come è stato qui in terra custode e difensore sia della Vergine Maria che di Gesù, e altrettanto anche in cielo, e questo abbiamo anche le conferme dei santi, è anche in cielo custode e difensore nella cura delle nostre anime e nell'opera della nostra santificazione. Ne ricaviamo che il nostro ricorso alla Madonna non dovrebbe mai essere disgiunto da quello di San Giuseppe, proprio come ha fatto Santa Teresa d'Avila, ma come hanno fatto, come vedremo, anche tanti altri santi. Non separi l'uomo ciò che Dio ha unito, no? Proprio questo, direi il motto che possiamo interpretare in questo senso proprio rivolgendoci nella preghiera a Maria e a San Giuseppe. L'altro dato importante è che Maria non solo non è gelosa che si ami San Giuseppe, sembra quasi che a volte pregando San Giuseppe si oscuri la Madonna, è il contrario, addirittura lei stessa ce lo insegna e, come ci dice Santa Teresa, è gioiosa questa Madre del Cielo quando vede questa devozione sul labbro e nel cuore dei suoi figli, devozione verso il suo sposo che tanto amò in terra e tanto ama in cielo. E sono convinto, scrivo, che una delle gioie che possiamo dare a Maria e uno dei mezzi più efficaci per guadagnarci il suo cuore immacolato sia proprio quello di amare anche il suo dilettissimo sposo terreno. Il terzo e ultimo dato che risalta dall'esperienza mistica di Santa Teresa è un po' spiacevole per chi ama San Giuseppe. Infatti egli, pur intimamente unito a Gesù e a Maria, resta uno sconosciuto per tanti cristiani. Santa Teresa stessa ha potuto vedere chiaramente la grandissima bellezza di Maria, ma non ha scorto in modo chiaro quella di San Giuseppe, pur sapendo che egli era lì, presente insieme alla Madonna. Ed è quello, possiamo dire, è un segno, no? Che accade anche a noi fedeli. Cioè tutti sappiamo che San Giuseppe è presente nella Chiesa di Gesù, come lo era anche nella Sacra Famiglia di Nazareth, e sappiamo anche, almeno dovremmo sapere, che egli protegge, assiste e difende i suoi figli, così come fece con Gesù ancora bambino, e vi assicuro che lo fa con ognuno di noi, anche se non lo sappiamo. E non solo Gesù bambino ha difeso, ma anche quando era adolescente, fino a quando naturalmente non è stato chiamato da Dio, quando è morto. Anche per questo sappiamo che patrono della buona morte e che il Signore, dovremmo proprio chiedere la grazia di morire come Lui, in compagnia di Gesù e di Maria e la sua compagnia anche di San Giuseppe. Ma tuttavia, ecco, a questo proposito, pochi sono veramente quelli che lo conoscono intimamente e profondamente, pochi quelli che apprezzano la sua grandezza e la sua santità e pochi, purtroppo, quelli che lo onorano. E allora io dico, attingiamo a piene mani a questo grandissimo tesoro che adesso sappiamo c'è, che il Signore si è degnato di donarci per poter essere da Lui maggiormente consolati nelle prove della vita. Quindi chiediamo a San Giuseppe questo aiuto di aiutarci nel nostro cammino di ogni giorno, di fortificarci nelle virtù, procedendo con maggiore sicurezza anche sulla strada del nostro pellegrinaggio qui sulla terra. Amiamolo allora San Giuseppe, amiamolo veramente con il cuore, cari amici, e conosciamolo per amarlo sempre più, sempre meglio, e lo faremo proprio, io spero che qualcosina faccia anche questa trasmissione come anche le altre, e facciamo proprio esperienza di questa sua potentissima intercessione presso il cuore di Gesù e quello immacolato di Maria. Proprio secondo quello che dice Santa Teresa, San Giuseppe attende solo che noi lo invochiamo per concederci quello di cui abbiamo bisogno. E lei stessa, questa beniamina di San Giuseppe, nella sua posizione di fondatrice di case religiose, volle dedicare proprio a lui il primo monastero. E pensate, questa cosa lei l'aveva nel cuore, ma lo fece anche per comando di Gesù stesso. Cioè Gesù che le dice di titolarlo San Giuseppe, di metterlo sotto la sua protezione. E vi leggo quello che scrive nelle opere al capitolo 32. Santa Teresa dice: «Or ecco che un giorno, dopo la comunione, il Signore mi ordinò decisamente di fare il possibile per attuare quel disegno, cioè la costruzione del primo monastero, assicurandomi che il monastero si sarebbe fondato e che egli vi avrebbe trovato le sue delizie. Dovevo dedicarlo a San Giuseppe, il quale avrebbe vegliato una porta, Nostra Signora l'altra, mentre Gesù Cristo sarebbe stato con noi. Così il monastero avrebbe brillato come stella di vivissimo splendore». E Santa Teresa, cari amici, fu soccorsa da San Giuseppe in quelle necessità che abbiamo appena detto, ma anche in altre, in modi veramente straordinari, come lei stessa ci ricorda. Troviamo infatti un'altra grande testimonianza sempre nelle opere, al capitolo 33. Lei scrive: «Una volta, trovandomi in necessità e non sapendo a chi ricorrere per pagare gli operai, mi apparve San Giuseppe, mio vero padre e protettore, e mi fece comprendere che il denaro non mi sarebbe mancato, per cui non dovevo temere di andare innanzi. Così feci, senza neppure un soldo, e il Signore mi provvide in tal maniera che quanti lo seppero si meravigliarono grandemente». Devo dire che San Giuseppe è stato invocato da tantissimi santi, ma anche da tantissimi di noi, proprio anche nelle difficoltà, anche quelle quotidiane, ma anche quelle economiche. Molti santi, per esempio, vivevano delle difficoltà economiche, come anche oggi, nelle loro congregazioni. Ricordo per esempio San Leonardo Murialdo, San Giuseppe Marello, San José María Escrivá de Balaguer, ma tanti altri si sono rivolti a lui proprio chiedendo il suo aiuto, lui che è stato un lavoratore, ha conosciuto anche la povertà, anche se la Santa Famiglia generalmente dagli scritti, dagli studi, non viene vista come una famiglia agiata, perché non lo era affatto, ma una famiglia molto sobria, normale, però sapeva anche cosa voleva dire vivere le difficoltà, chi più di lui, chi più di San Giuseppe. Voi pensate solo quello che ha passato questo santo, con la preoccupazione, la paura di non riuscire a compiere pienamente e completamente il compito gigantesco che il Signore gli aveva assegnato, difendendo la vita di Gesù e di Maria. Pensate. Quindi tanti santi si sono rivolti come Santa Teresa a lui per questa cosa. E sempre lei, Santa Teresa, in un'ora di particolare angustia spirituale, qui era proprio la notte oscura, una prova tremendissima, viveva veramente dei giorni orribili, pregò proprio il suo caro protettore che ottenne la grazia per lei e le inviò quello che sarà poi il futuro San Pietro d'Alcantara. E San Pietro d'Alcantara allora è il commissario generale della custodia, e così scrive Santa Teresa: «Rimasi molto contenta, perché l'aiutò tantissimo a uscire da questo buio, rimasi molto contenta e non cessavo di ringraziare il Signore e il mio glorioso padre San Giuseppe per parermi che fosse stato lui a far venire da me quel santo uomo che era puro San Pietro d'Alcantara. A San Giuseppe, dice, mi ero molto raccomandata, non meno che all'intercessione di Nostra Signora». Ecco, sempre l'unità, la Madonna e San Giuseppe. E veramente, cari amici, possiamo dire che questa santa spagnola fu oggetto di predilazione da parte del Santo Patriarca, e lei, ricambiando, lo amò molto nella sua vita e fece tanto perché il culto e la devozione al Padre Virginale di Gesù e allo Sposo Purissimo di Maria fossero estesi a tutto il mondo. A lui infatti volle fosse dedicato, abbiamo visto, il primo monastero della riforma carmelitana da lei fondato, e insieme a questo molti altri monasteri che durante la sua vita ebbe la grazia di vedere realizzati. E per concludere, Santa Teresa, vi ricordo, lo scrivo, un episodio che ci viene tramandato. Cos'è successo? Poiché dopo la morte di Santa Teresa d'Avila e la conseguente canonizzazione, lei fu canonizzata da Papa Gregorio nel 1622, si voleva mettere sotto la sua protezione molte delle chiese, delle case claustrali che lei invece aveva dedicato a San Giuseppe. ella apparve un giorno alla nuova superiora del monastero di Avila, comandandole di dire al padre provinciale che si guardasse bene dal permettere una cosa del genere e che invece si conservasse il nome di San Giuseppe a tutte quelle chiese e a quelle case che lei aveva fondato, mettendole sotto la protezione del Santo Patriarca. Questo per darci anche il taglio della figura di questo santo. E sempre in relazione a Santa Teresa è da considerare quello che disse padre Patrignani, un suo grande ed eminente studioso. Dice di Santa Teresa: San Giuseppe, egli le svelò se stesso, l'efficacia del suo patrocinio, la bontà del suo cuore paterno, e Teresa, intenerita da questo amore di predilezione, fece quanto era in potere suo perché il culto di San Giuseppe si diffondesse tra i fedeli. E da Santa Teresa d'Avila passiamo adesso a un altro santo, soprattutto mariano, San Luigi Maria Grignon de Montfort. E scrivo: si può ripetere di San Giuseppe ciò che Luigi Maria Grignon de Montfort scriveva ai suoi tempi della Vergine Maria. La Divina Maria, scriveva Maria Grignon de Montfort, la Divina Maria non è stata finora conosciuta e questa è una delle ragioni per cui anche Gesù Cristo non è conosciuto come dovrebbe. Se dunque, come certo, il regno di Gesù Cristo deve stabilirsi sulla terra, non sarà che una conseguenza necessaria della conoscenza e del regno della Santissima Vergine che lo ha messo al mondo la prima volta e lo fa risplendere la seconda. Ed è molto vero questo. Noi sappiamo che negli ultimi secoli la devozione alla Madonna è stata un fiorire meraviglioso anche di nuove vocazioni, di grandissima preghiera. Sono riprese le orazioni che la Madonna ama di più, come il Santo Rosario, ma soprattutto questa devozione a Maria la Madonna stessa ci ha fatto bruciare nel cuore un amore più grande per Gesù. La Madonna ci porta Gesù e devo dire è spiacevole a volte, lo si è visto anche nei secoli scorsi, ma a volte anche oggi, mettere la Madonna da parte quasi come se facesse ombra al Signore. È esattamente il contrario. Si prega troppo la Madonna, quindi si rischia di non far vedere Gesù. Ma no, la Madonna ci porta Gesù, la Madonna ci fa amare molto di più Gesù, perché ce lo fa capire con il cuore, con l'amore, con la carità. Lei che è stata madre e madre nostra fino in fondo, ci porta a Gesù con tutto l'amore possibile e immaginabile e sicuramente questo ci ha aiutato a capire meglio Gesù, ad amarlo molto molto di più. E io dico, l'opera provvidenziale con cui Maria Santissima ha dato alla luce Gesù e lo ha nutrito, non si potrà mai separare da quella di San Giuseppe, che di Gesù è stato il custode fedelissimo e lo ha alimentato con il lavoro delle sue braccia e il sudore della sua fronte. E questo è profondamente vero in rapporto a quello che dice, diciamo, San Luigi Maria Grignon de Montfort riguardo alla Madonna, lo diciamo su San Giuseppe, anche perché allora, diciamo, la donna era in secondo piano rispetto all'uomo, cioè era il papà di famiglia che, per esempio, parliamo della circoncisione, era Giuseppe, è Giuseppe che ha scelto il nome, la presentazione al Tempio, era Giuseppe che dava il riscatto del primogenito, quando l'età adulta, i 13 anni, è Giuseppe che si è presentato ai dottori della legge perché Gesù entrasse nell'età matura, c'era e Giuseppe che ha fatto tutto questo iter santo, è stato padre fino in fondo, totalmente fino in fondo, nella sua purezza e nella sua santità, è stato nello stesso modo, puro e candido come un giglio, sposo meraviglioso della Vergine Maria. E si può ragionevolmente pensare che anche Gesù, che si è degnato di nascere nella famiglia benedetta di Giuseppe e Maria, desideri ancora regnare sul mondo anche attraverso l'opera della sua santa famiglia ed estendere nelle anime la conoscenza e l'amore del suo fedele custode e della sua madre divina. Mi ricollego a quello che scrivo ricordando un attimo quelle che sono state anche l'apparizione della santa famiglia a Fatima oppure alle Ghiaie di Bonate. voglio dire, è una presenza unica nel suo genere. Quindi veramente il Signore aiuta ognuno di noi, desidera aiutare ognuno di noi anche con la sua madre in modo particolare, con la Vergine Maria, ma anche con San Giuseppe. E un altro, passiamo adesso a un altro santo profondamente giuseppino, che è San Giuseppe Marello. San Giuseppe Marello ha fondato gli Oblati di San Giuseppe. E qui ricordo due persone, due Oblati di San Giuseppe contemporanei, sono mancati alcuni anni fa, e uno è padre Angelo Rainero, che ha scritto molto, è stato anche un teologo, ma anche uno scrittore, studioso di San Giuseppe fino in fondo. Io ho avuto il piacere di conoscerlo, e devo dire che un suo libro, questo mio libro di oggi, buona parte è stato ripreso, naturalmente rivisto e quant'altro, ma ripreso da quello che aveva scritto padre Angelo Rainero, che è stato per molti anni parroco alla Chiesa della Madonna dei Poveri, che ha voluto molto fortemente il Cardinal Schuster, se non sbaglio, nel 51. E padre Angelo Rainero era, come Santa Teresa e come gli altri santi giuseppini, erano molto devoti alla Madonna e molto devoti a San Giuseppe. Infatti lui andava molto spesso a Bagneux a fare i pellegrinaggi. A Bagneux era apparsa la Madonna nel 1933 e come Vergine dei Poveri. Ecco perché a Milano c'è stata poi questa parrocchia, costruita, se non sbaglio, nel 51, proprio voluta dal Cardinale, come la Madonna dei Poveri. Un altro grande studioso, che ho avuto sempre il piacere di conoscere, è stato padre Tarcisio Stramare, anche lui degli Oblati di San Giuseppe. Ma adesso andiamo a questo loro fondatore, Monsignor Giuseppe Marello, San Giuseppe Marello in questo caso, siamo già nel XIX secolo. Lui ha speso la vita occupandosi in modo particolare degli anziani e dei giovani, cercando di dare a questi ultimi un'istruzione e un arricchimento che non fosse solo di tipo culturale, ma soprattutto spirituale. La cultura va benissimo ed è fondamentale. La spiritualità, un cammino sulla via, diciamo, della grazia, ha un carattere anche sociale, perché si è buoni cristiani, si è buoni esempi anche nella società. E questo lo sanno tutti i maestri di spirito, ma anche i grandi educatori santi, da San Giovanni Bosco appunto a San Giuseppe Marello, a quant'altre. Ricordo che poco prima di essere consacrato vescovo, nel febbraio del 1889, fondò appunto la Congregazione degli Oblati di San Giuseppe. E come possiamo intuire, cari amici, dal nome stesso della Congregazione, tutta l'opera fu posta per suo volere sotto la guida e la protezione di San Giuseppe, questo per darci un saggio dell'amore e della devozione che nutriva verso il custode di Gesù. Questo santo oggi è sepolto ad Asti, proprio all'interno del santuario di San Giuseppe, che oltretutto è anche la casa madre della Congregazione degli Oblati. E Monsignor Marello esortava molto spesso i suoi figli spirituali e diceva loro: «Preghiamo Santa Teresa, la beniamina di San Giuseppe, che ce ne renda beniamini». E raccomandava ai suoi discepoli: «A San Giuseppe domandiamo che ci faccia da direttore spirituale», vedete anche qui. «Bisogna prendere le proprie ispirazioni da San Giuseppe», dice, «che fu il primo sulla terra a curare gli interessi di Gesù. Egli che ce lo custodì infante e lo protesse fanciullo, egli fu in luogo di padre nei primi anni della sua vita qui in terra». E si avverò nella vita di San Giuseppe Marello quello che dice appunto della Vergine Maria San Luigi Maria Grignon de Montfort riguardo ai suoi devoti. Il Montfort dice così riguardo alla Madonna: «Ella i suoi devoti li ama, li guida, li protegge e li difende e intercede efficacemente in loro favore. Ella fa per mezzo di essi grandi cose, pur conservandoli nella convinzione che sono dei servi inutili e che un atto di puro amore di Dio val più e fa maggior bene nella Chiesa che tante opere esteriori ispirate da una carità meno profonda». Ecco, Monsignor Marello gli fa eco dicendo: «Val meglio un pensiero di carità di mille progetti filantropici». Perché dico questo? Perché questo santo, giustamente chiamato un novello Francesco di Sal, San Francesco di Sal, ricevette proprio dalla Madonna la prima chiamata al sacerdozio all'età di 11 anni, pensate. Dopo essersi allontanato per poco dal seminario, non per sua volontà, ma perché il papà lo insisteva continuamente perché voleva fargli fare il commerciante come lui, e fu colpito invece questo ragazzino da una malattia grave. Condotto quasi alla morte, ricevette proprio dalla Madonna, gli apparve la Madonna, la certezza che sarebbe guarito se fosse rientrato in seminario. Ne parlò col papà e il papà, stupito, sconcertato, ma illuminato anche, non pose più da quel momento nessun ostacolo alla sua vocazione e lui, a partire da quell'istante, rientrò in seminario e continuò a crescere in tutte le virtù, tenendo sempre presente quello che è stato il suo maestro di vita, San Giuseppe. Ma ciò che in lui colpisce soprattutto è, insieme all'amore per Gesù e per la sua Chiesa, la grande carità verso il prossimo. Amava ripetere che il segreto dell'eloquenza sacerdotale consiste nella carità e nella preghiera, e viveva profondamente tutto ciò che insegnava ai suoi figli, cioè faceva, dava l'esempio e parlava. E univa mirabilmente la vita interiore profonda, l'amore al silenzio e alla solitudine, con l'azione apostolica. E diceva ai suoi cari oblati di San Giuseppe: siate certosini in casa e apostoli fuori di casa. E proprio, cari amici, la sua devozione a San Giuseppe ci dà il frutto di quello che aveva preso San Giuseppe come suo direttore, no? Come suo maestro di vita, ci dà il frutto di quello che raccoglie questo grande santo. Di chi è? Qual è il suo cammino? Egli stesso, proprio San Giuseppe Marello, quanto più si ritirava dall'azione esteriore per darsi al raccoglimento e alla preghiera, tanto più si disponeva ad un'azione profonda e fruttuosa. Aveva compreso, anche per la propria esperienza, che la preghiera è l'anima dell'apostolato e che la predicazione vivente deve procedere dalla contemplazione dei grandi misteri della religione, vale a dire da una fede viva, penetrante e saporosa, che sola permette di parlare dei misteri della salute dell'anima come dell'unica cosa necessaria alla vera vita. Ed è così. La salute dell'anima è la cosa più importante della nostra vita. Noi ricordiamo sempre a cosa serve conquistare il mondo se poi perdiamo la nostra anima, ma per carità, ma Dio non voglia mai. Proviamo solo a pensare a quello che la Madonna Fatima ha fatto vedere ai pastorelli, l'inferno, oppure quello che la Madonna stessa a Međugorje ha fatto vedere ai veggenti. Questa veramente è quello che fa Radio Maria. L'obiettivo di Radio Maria è la salvezza delle anime. Scusate, non c'entra, ma in questo caso è proprio vero, è così. Ritornando a San Giuseppe Marello, scrivo: la sua fiducia nella provvidenza divina, anche in mezzo alle difficoltà, era all'altezza della sua fede, e la sua carità per tutte le anime che l'avvicinavano si manifestava mediante una pazienza instancabile e un'ammirabile dolcezza, frutto di grandi sforzi per domare un carattere ardente e focoso. In effetti era così, questo santo era vulcanico, una cosa incredibile. Eppure era arrivato, con l'aiuto della grazia divina e mediante questo sforzo perseverante, ad una perfetta padronanza di sé, ad una carità delle più sfolgoranti, che faceva veramente di lui uno dei vescovi più zelanti e amati, come diceva lo stesso sommo pontefice Leone XIII. E Leone XIII è stato un altro grande devoto di San Giuseppe. Voi pensate che questo Papa ha scritto un'enciclica sul Rosario e sulla devozione Quamquam Pluris nel 1989, sul Rosario e sulla devozione a San Giuseppe. Pensate com'era, diciamo, anche lui innamorato di questa bellissima figura di santo. Tornando a San Giuseppe Marello, dopo aver occupato per 6 anni la cattedra episcopale di Acqui, questo dolcissimo servitore di Dio vide passare attraverso una grande prova la congregazione da lui fondata. Fu un vero uragano che sembrava dover rovesciare ogni cosa. In effetti cercarono di distruggere, proprio letteralmente distruggere, la congregazione per tante cose, no? Per tanti. Poi l'altro, ovviamente, quando può, ci mette tutto se stesso per rovinare, far franare le cose più belle di Dio, no? Ma questo è anche il segno che siamo sulla strada di Dio. E lui cosa fece però? Fu una prova grandissima che gli provocò una sofferenza immane. Noi non abbiamo idea della sofferenza che provò San Giuseppe Marello in quei giorni, in quel periodo. E allora fece ricorso più che mai alla preghiera a San Giuseppe e offrì addirittura la sua vita per la congregazione. E proprio l'oblazione di questo santo vescovo, amato e apprezzato da tutti nella diocesi, fu accolta dal cielo. Egli moriva qualche giorno dopo aver fatto visita al santuario di Nostra Signora della Misericordia nella città di Savona, lo stesso santuario dove aveva ricevuto la prima chiamata al sacerdozio a 11 anni. Possiamo dire che la Madonna richiamava Dio e suo figlio spirituale e salvava al tempo stesso la famiglia religiosa da lui fondata. Questa famiglia, cari amici, che poi doveva crescere in santità, in opere di bene in tutto il mondo, per il bene delle anime in modo particolare, fin nelle più lontane terre di missioni, sotto la guida e il patrocinio di San Giuseppe. Ecco, cari amici, abbiamo chiuso questa prima parte e fra un po' non abbiamo tempo per le telefonate, ma cercheremo di farlo nelle prossime occasioni. Questa sera abbiamo visto parte dei santi, poi per la prossima volta vedremo altri santi, ma anche i papi in modo particolare. Poi parleremo anche delle devozioni e delle apparizioni di San Giuseppe. Quindi ci sarà un bel compendio su tutto, ecco. E con la speranza, insomma, che sia stata gradita questa trasmissione e spero anche le altre, perché veramente lo si possa amare con vero cuore, questo santo, perché davvero lo merita pienamente e totalmente, merita la nostra fiducia, la nostra speranza, il nostro amore e il nostro pregarlo, perché è davvero un potentissimo intercessore presso il cuore di Dio. Bene, io vi ringrazio, ringrazio anche Andrea che ci ha guidati dalla regia questa sera. A Dio Picento ci sentiremo presto e auguro un buon mese di maggio a tutti nel cuore immacolato di Maria. Buonanotte a tutti da Angelo. Chiedo scusa, ho dimenticato di ricordare il libro. Allora, il libro da cui prendiamo le trasmissioni il sottoscritto Angelo Figurelli. Il titolo è San Giuseppe, la tenerezza di Dio. Abbiamo anche l'introduzione, dicevo, di Padre Livio e Sugarco Edizioni. Lo potete trovare in tutte le librerie, da qualche settimana è già presente. Grazie ancora e buonanotte. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.